ben ritrovati, sono Livia Napolitano. Questa settimana il nostro viaggio a chilometro zero subisce una battuta d'arresto. Non ci sarà la musica di Cajorda ad accompagnarci. Quella che avete appena ascoltato sono le sirene dei vigili del fuoco che il 4 marzo 2013 si recavano a Bognoli, distante pochi chilometri da Napoli, presso Città della Scienza, luogo dell'attentato alla cultura e alla speranza. Perché di questo si tratta, di un vero e proprio attentato. In questa puntata riporteremo le testimonianze di chi a Napoli ci vive, di chi ogni giorno si impegna per renderla migliore, di quei giovani che non si rassegnano ad andare via, come Manila, 30 anni, avvocato, che scrive: «Era tarda sera quando la notizia si dirama rapida, come le fiamme che hanno devastato il Museo Culturale Scientifico di Bagnoli. Città della Scienza va a fuoco e con essa una parte delle speranze di quei cittadini che credono ancora che Napoli sia la città più bella del mondo. I napoletani avevano già subito un duro colpo. Nella mattina di quello stesso giorno un palazzo antico della Riviera di Chiaia era crollato senza fortunatamente fare alcuna vittima. Chi è stato? Fu quello il primo pensiero che mi venne in mente e non solo a me. Non si poteva credere che una struttura di quelle dimensioni potesse prendere fuoco interamente, come se fosse fatta di carta pesta, senza che i vigili del fuoco riuscissero a domare le fiamme. Il custode aveva dato immediato allarme, ma l'incendio si era propagato rapidamente, non dando alcuna possibilità di arrestarne l'incedere devastante. Il mattino seguente la procura di Napoli avviava un'inchiesta per accertarne le cause. I polizia, pompieri, magistrato effettuavano un sopralluogo insieme alla scientifica per i rilievi necessari. La risposta non tarda a venire. L'incendio è doloso. Dai rilievi tecnici eseguiti dalla polizia scientifica nei luoghi dell'incendio che ha devastato Città della Scienza emerge la presenza di tracce di benzina su 6 reperti rinvenute in 4 distinte aree della struttura. Gli inquirenti seguono 3 piste, quella legata agli interessi della Camorra, quella interna e anche quella eversiva, seppur considerata residuale. Ma per poter comprendere la direzione che hanno assunto le indagini, è necessario in primo luogo conoscere la storia e la realtà territoriale in cui sorgeva il sito scientifico. Il progetto Città della Scienza viene approvato tra il 1992 e 1993, anno in cui è inaugurato il primo insediamento a Bagnoli. Il sito viene interamente costruito lì dove sorgeva la più antica fabbrica della zona, l'ex vetreria Lefebvre, in quanto l'ulteriore finalità del progetto era la riqualificazione dell'ex area industriale di Bagnoli. La città di Bagnoli è stata spesso oggetto di progetti di riqualificazione, necessitava di lavori di bonifica che indiscutibilmente rappresentavano un forte interesse per le attività criminali di quel luogo. Bagnoli è di fatto sotto l'egemonia di un clan avente come capo indiscusso Domenico D'Ausilio, detto Mimio Sfregiato, che spesso si è interessato di questioni imprenditoriali, provando ad intervenire nelle gare d'appalto destinate alla bonifica. D'Ausilio è in carcere dal 2009 e proprio al momento del suo arresto furono trovati nella sua abitazione alcuni pizzini con i nomi d'aziende interessate agli appalti di Bagnoli Futura, la società pubblica che stava lavorando alla bonifica e allo sviluppo dell'ex area industriale. Il suo arresto non ha fermato la criminalità dilagante perché non solo i suoi affiliati hanno continuato ad agire sul territorio, ma sono comparsi nuovi gruppi pronti ad accaparrarsi il potere lasciato in parte vacante dal capo clan. Eppure, per quanto la matrice criminale possa sembrare evidente, non possono escludersi ulteriori ipotesi. La criminalità organizzata è una realtà persistente e conosciuta, ma allo stesso tempo non possiamo farne un paravento per qualunque cosa accada o spiegare tutto solo ed esclusivamente in questa chiave, perché l'illegalità non consiste solo nella loro attività, ma anche in altre tante manifestazioni che possono caratterizzare larghe fasce della nostra società, come ha detto il questore Luigi Merolla. Effettivamente è troppo presto per poter trarre delle conclusioni. Le indagini sono di pochi giorni e la complessità dei fatti, gli ingenti interessi economici che si celano dietro la distruzione e la successiva ricostruzione rende più ardua la scoperta della verità. L'altra ipotesi accreditata è la pista interna. Città della Scienza non viveva un periodo florido. I dipendenti non percepivano lo stipendio da più di 8 mesi, né venivano pagati molti fornitori. Il fatturato però non era basso. I soldi che mancavano erano quelli che Città della Scienza vantava dalle istituzioni. 1,5 milioni dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 2,7 milioni da Campania Innovazione, società della Regione, e infine i fondi che avrebbero dovuto stanziare lo stesso ente presieduto da Stefano Caldoro, che negli ultimi 5 anni ha ridotto al lumicino i contributi per la struttura. Non si possono escludere episodi di ritorsione anche alla luce dei premi assicurativi in ballo per alcuni lavori condotti solo a metà e in attesa di nuovi finanziamenti pubblici. Non si può evitare di pensare che la sensibilizzazione dei cittadini, delle comunità e dei vari enti sta portando in questi giorni una liquidità che non si vedeva da tempo. Le ricostruzioni portano soldi e quelli fanno gola a chiunque, non solo alla camorra. Basti ricordare le conversazioni intercettate a 2 imprenditori subito dopo il terremoto dell'Aquila. Quelle affermazioni così odiose eppure estremamente reali. E quindi è evidente il movente imprenditoriale: spostare quattrini, veicolare investimenti, avere in tasca la certezza di entrare nella ricostruzione, di svolgere un ruolo nella nuova bonifica di un pezzo di costa occidentale. Resta per me emblematica la frase di un cliente fuori le aule d'udienza, mentre si conversava dei fatti di cronaca napoletana. Avvocà, mi dispiace, per carità, Città della Scienza è stata distrutta, ma ora ci sarà un po' di lavoro per tutti. Una frase semplice eppure emblematica. Riportiamo adesso la testimonianza di Teresa, una giovane psicologa napoletana che scrive: «Ho spesso l'impressione che tutto ciò che riguardi Napoli abbia il sapore di un tema inconfondibile, riscossa. Basti pensare all'accanimento che i napoletani manifestano nel calcio, con la scalata dalla Serie C fino alla partecipazione alla Champions, o alle storiche canzoni napoletane, o ancora alla reazione che hanno avuto i napoletani al rogo di Città della Scienza. Città della Scienza nasce già dalle ceneri. Nel 1987 le prime attività vennero avviate al termine dell'esercizio industriale delle acciaierie dell'Ilva, ex Italsider. La crisi del settore siderurgico degli anni Ottanta ha portato a smantellarne l'impianto industriale a Bagnoli, quartiere di Napoli, e a destinare alla disoccupazione tantissimi operai. Città della Scienza è già stata dunque la risposta ad una Napoli in ginocchio, la quinta città industriale d'Italia e la prima deindustrializzata. Negli anni Ottanta Città della Scienza si configurava come un modello produttivo della città innovativo, stavolta basato sulla conoscenza, forza motrice alternativa negli anni della Napoli operaia. Città della Scienza è stata ed è, perché ricordiamo, le attività sono riprese, il primo museo scientifico interattivo in Italia e conta 350.000 visitatori l'anno. Fra i commenti che si leggono sul sito di Città della Scienza e sui social network, il museo viene da molti paragonato ad una fenice. La fenice è un simbolo di speranza da sempre, mitologico volatile capace di curare le ferite con le proprie lacrime e rinascere dalle proprie ceneri. Mai il paragone fu più azzeccato, così come è stato per la sua nascita. L'Europa tutta spera che accada ancora che Città della Scienza, il cui spirito non è rimasto sepolto sotto le macerie, rinasca a nuova e più florida vita. Il 10 marzo oltre 10.000 persone, fra esponenti politici, artisti, alunni, si sono uniti in un flash mob urlando in coro basta, un imperativo contro lo scempio di cultura e bellezza partenopea da parte della criminalità organizzata. È proprio così. Il rogo di Città della Scienza e la conseguente pronta reazione della popolazione è divenuto il simbolo della lotta fra la cosiddetta Napoli bene e la criminalità organizzata, la vera zavorra di Napoli. E ripeto, a Napoli si respira questo tema di lotta e riscossa in ogni angolo. La criminalità organizzata, sappiamo benissimo, non vive a Napoli, o almeno non solo. Eppure quando si pensa a Napoli si pensa al crimine. Questa credenza così radicata è la vera zavorra di Napoli. Questa etichetta che pesa come una maledizione sul destino di una città stupenda, che trova consensi in un'Italia a cui fa comodo un capo espiatorio, una pecora nera a cui dare la colpa. Eppure c'è chi è stufo di tutto questo e grida basta. Questo flash mob incarna ciò che il rogo della Città della Scienza, insieme alla tempestive azioni per la sua ricostruzione, rappresenta per tutti e che da sempre è il tema di questa città. La lotta contro una forza che da sempre tenta di schiacciare Napoli e la speranza che la popola.